falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Genio non protegge dalle malattie mentali, anzi, nella storia è successo più volte che le due cose fossero correlate. Questa è una delle grandi lezioni del protagonista di oggi, John Nash. John Nash è l'uomo che ha rivoluzionato l'economia con i suoi studi di matematica applicata alla teoria dei giochi. Ha vinto il premio Nobel nel 1994. È stato tra i matematici e le menti più brillanti e originali del Novecento. Noi lo abbiamo conosciuto perché ha sofferto per lungo tempo di una grave forma di schizofrenia che ha ispirato la realizzazione di un film pluripremiato, A Beautiful Mind, quello interpretato da Russell Crowe, che racconta appunto la vita di Nash a partire dai tempi dell'università. Ma guardatelo. Nash, che fai? Quattro passi da gambero? Spero di estrarre un algoritmo che definisca i loro movimenti. È pazzo? Ehi, Nash, credevo che avessi mollato. Non vieni mai a lezione o... Le lezioni ottundono la mente, distruggono il potenziale della creatività vera. Non lo sapevo. Nash ci stupirà tutti grazie al suo genio. In altre parole, non ha il fegato di confrontarsi. Spaventato? Terrorizzato, mortificato, pietrificato, disorientato da te. John Nash nasce il 13 giugno 1928, segno dei gemelli, guarda caso, Bluefield, West Virginia, nel Bluefield Sanitarium, che è un ospedale che oggi non esiste più. La sua cittadina originaria non è famosa per avere dato i natali a grandi intellettuali o per essere sede di società di alta tecnologia, è solo un centro di affari che deve la sua esistenza alla ferrovia e ai ricchi giacimenti di carbone della Virginia occidentale. Suo padre, John Nash Senior, un ingegnere elettrico originario del Texas, si è trasferito a Bluefield per lavorare per la società di servizi elettrici che c'era sul posto, che si chiama Appalachian Electric Power Company. Il padre è un veterano della Prima Guerra Mondiale, ha prestato servizio in Francia come tenente e non è mai stato un combattente di prima linea. La madre, Margaret Virginia Martin, da tutti chiamata Virginia, anche lei di Bluefield, è laureata alla West Virginia University, ha insegnato inglese e latino prima di sposarsi. Quando lui ha due anni, nel novembre del 30, nasce anche sua sorella Martha. Una volta i miei andarono dai professori, John era alle elementari. Loro dissero che John non riusciva a fare matematica. Mia madre rise, perché era ovvio che per gli altri John si comportasse in un modo diverso. Penso che i miei abbiano sempre saputo che John era diverso. Forse non è un bambino prodigio, però è sveglio e la madre lo segue. A 4 anni gli insegna a leggere, poi lo manda in un asilo privato, gli fa da tutrice a casa. In seguito, ai tempi della scuola superiore, lo fa iscrivere al Bluefield College per seguire i corsi di inglese, scienze, matematica. E lui, fin da piccolino, si appassiona alle materie tecniche, legge di tutto, soprattutto i volumi comprati dai suoi genitori, in particolare i libri che compongono un'intera enciclopedia. Invece di giocare con gli altri bambini, a lui piace stare da solo in salotto a leggere. Suo padre gli regala libri di scienze, lui li divora perché ama conoscere e studiare, e se finisce i libri in casa sua va in quella dei nonni. Alla domenica il papà porta i figli in macchina a ispezionare le linee elettriche e risponde volentieri alle loro curiosità su geologia, meteorologia, astronomia, materie tecniche. È aiutato dalla presenza della sorellina e a volte lui è coinvolto nei giochi, ma a 8 anni i suoi genitori cercano di spingerlo a fare attività sociali, lo mandano in campeggio con i Boy Scout, a catechismo, pure a una scuola di galateo, insomma, per cercare di farlo stare insieme agli altri. E anche i suoi insegnanti hanno intuito che c'è un comportamento antisociale e che loro non vedono di buon occhio, non vedono in lui i semi del genio che poi fiorirà. Insomma, a scuola è un bambino come gli altri, un po' troppo introverso. Al liceo è appassionato al mondo dei numeri, a 14 anni legge il classico Man of Mathematica, i grandi matematici di Eric Temple Bell, e viene rapito dal teorema di Fermat sui numeri primi, ne escogita una dimostrazione, poi fa numerosi esperimenti elettrici e di chimica. I docenti lo vedono annoiato, però ne capiscono il talento e ottiene subito una prestigiosa borsa di studio, la George Westinghouse Scholarship. Così nel 1945 va a Pittsburgh, all'università Carnegie Mellon, per studiare ingegneria chimica. Dopo un semestre però capisce che la chimica non è la sua strada. Lui racconterà che non ha amato per niente i corsi di disegno meccanico, i laboratori, e ben consigliato dal direttore del dipartimento di matematica e da altri professori, cambia indirizzo, sceglie quella che sarà la sua vera passione, la matematica, e in questo campo mostra da subito abilità eccezionali, viene spinto verso una carriera accademica, i professori lo corteggiano ma i compagni lo tengono a distanza. La laurea arriva nel 1948, riceve diverse offerte di borsa di studio per un dottorato dalle università di Harvard, Princeton, Chicago, Michigan. E lui sceglie Princeton anche perché è la più vicina a Bluefield, dove entra nel settembre del 48 a Princeton. Nella lettera di presentazione all'università compare solo una frase scritta dal rettore: quest'uomo è un genio. Ora chi fra voi sarà il prossimo Morse? Il prossimo Einstein? Chi fra voi sarà l'avanguardia della democrazia, della libertà e della ricerca? Oggi noi affidiamo il futuro dell'America nelle vostre abili mani. Benvenuti a Princeton, signori. Solomon Lefschels è il direttore del dipartimento di Princeton e lui offre a Nash la John Kennedy, la borsa di studio più prestigiosa del dipartimento. Sono $1,150 all'anno, che ai tempi coprono le spese per corsi, affitto di una camera e anche per i pasti. Forbes Nash Jr. all'età di 21 anni è uno studente dell'università di Princeton alle prese con la sua tesi di dottorato in matematica, però è un ragazzo da un lato chiuso e dall'altro eccentrico, non riesce ad avere amici o ragazze, lui rimane solo con i suoi amati numeri, spesso è distratto, distaccato, attento a particolari che per la maggioranza della gente sono di poca importanza, così come tutti i geni. I suoi compagni lo considerano un ragazzo strano, con difficoltà a rapportarsi con gli altri. Lo descrive un suo compagno, un altro matematico, Mel Hausner. John Nash è sempre stato qualcosa di unico. Quando John entrava in una stanza, ti accorgevi immediatamente della sua presenza. Penso che si reputasse superiore, intellettualmente e matematicamente superiore. Noi tutti ci consideravamo in modo speciale, ma lui era qualcosa di diverso. John era assolutamente al di sopra di tutti noi. Beh, in quel periodo conosce alcuni tra i più importanti scienziati dell'epoca, perché a Princeton insegnano giganti della scienza come Albert Einstein, come John von Neumann e insomma insegnanti di tutto rispetto. Lui si laurea nel 50, inizia a insegnare. E il 2 settembre 1952 conosce Eleanor Steer, con la quale avrà un figlio, John David, nato poco dopo. Non la sposa e non l'aiuta neanche a mantenere il piccolo. Dopo anni deciderà di dargli il suo cognome e il figlio a quel punto non accetta. E nel 55 invece conosce Alicia Lard, che è una studentessa al MIT, una sua studentessa. Conosce il mondo accademico. Lei è nata a El Salvador, però si è trasferita da piccolo negli Stati Uniti con i genitori. Si laurea a pieni voti in fisica al MIT e trova un lavoro nella zona di New York City. Lui la corteggia per 2 anni, poi la corte serrata finisce. Siamo nel febbraio del 57. Alicia, il nostro rapporto garantisce un impegno a lungo termine, perché io ho bisogno di una prova, una sorta di dati empirici verificabili. Scusami, dammi solo un attimo per... per ridefinire il mio concetto puerile di rapporto amoroso. Una prova, dati verificabili. Ah, ok. Allora, quanto è grande l'universo? Infinito. Come lo sai? Perché tutti i dati indicano che è infinito. Ma non è stato ancora dimostrato, no. Tu non l'hai visto. Come no. Fai a saperlo con certezza? Non lo so, ci credo e basta. È la stessa cosa con l'amore, penso. John e Alicia si sposano in chiesa, anche se lui è ateo. Intanto Nash lavora senza sosta come docente e come ricercatore insieme ai suoi colleghi. Viene segnalato dalla rivista Fortune. Abbiamo appena ricevuto un altro incarico di grande rilievo. Ecco, i russi hanno la bomba H. I nazisti stanno ripopolando il Sud America. I cinesi hanno un esercito permanente di 2.800.000 uomini. E io faccio testa di resistenza per una diga. Ehi, guarda, sei sulla copertina di Fortune. Un'altra. Prego di notare l'uso di sei invece che siamo. Ci dovevo essere soltanto io. Oh. Quindi non solo mi rubano la medaglia Fields, adesso mi mettono sulla copertina di Fortune insieme a questi cialtroni studiosi di banalità. John, che differenza c'è di preciso fra un genio e un supergenio? Una bella differenza. Quindi il modestissimo John Nash viene segnalato per lo sviluppo della teoria dei giochi, la geometria algebrica, la teoria non lineare. Da Fortune comunque viene definito il più brillante matematico della giovane generazione. Bene, prima di andare avanti proviamo a capire assieme a un esperto, a uno che ne sa molto più di me, il professor Massimo Marchiori, che è uno scienziato di fama mondiale. Lui ha appena pubblicato con Etas Rizzoli Meno Internet più Cabernet, il grande spettacolo del progresso tra Michelangelo e Google. È già interessante il titolo e quindi immagino il libro. Professor Marchiori, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, intanto volevo sapere, pressa poco, insomma, se riesci a spiegare a un non matematico come me cos'è esattamente la teoria dei giochi. Beh, molto facile. Anzitutto, diciamo, la parola gioco può far sembrare una cosa abbastanza banale, no? Invece è più che altro il grande gioco della vita. Cioè nel gioco della vita siamo sulla grande scacchiera, tipo, e ogni mossa che facciamo poi corrisponde a cose buone o certo. Cose cattive. Per cui questa teoria dei giochi nasce proprio con lo scopo di capire come diavolo viviamo e quali sono le strategie anche migliori che noi possiamo poi usare nella vita per vivere meglio. Quanto tempo passa dall'effettuazione della mossa alla consapevolezza se la mossa era buona o cattiva? Quello dipende da noi. Più che altro la teoria dei giochi aiuta a renderci conto di questa consapevolezza, perché quelli, diciamo, che ne sanno di più di teoria dei giochi, che ha ripercussioni in tutto, perché per esempio si applica dalla vita di tutti i giorni, dal traffico alla pubblicità, al calcio, al gioco del calcio, anche ai rapporti di coppia, riescono a capire meglio quali sono le mosse migliori per cui a vincere magari. Dunque, Nash diventerà celebre per avere dato forma a quello che viene chiamato empiricamente l'equilibrio di Nash. Viene introdotto anche da una scena del film Beautiful Mind, e vorrei ascoltare assieme a lei un estratto da questa scena in cui c'è una bella bionda che entra con delle amiche in un pub ed ecco come reagiscono John e i suoi amici. Pensate alla lezione di Adam Smith. Il padre dell'economia moderna. Nella competizione. L'ambizione individuale serve al bene comune. Esatto. Ognuno per sé, signori, mi raccomando. Sì, e quelli che fanno fiasco finiscono con le sue amiche. Io non farò fiasco. Sì, è meglio una bionda oggi che una gallina domani. Non è così il proverbio. Che nessuno si muova. Guarda da questa parte. Mi pare che guardi Nash. Oddio, lui potrà pure essere in vantaggio adesso, ma aspettate che apra bocca. Vi ricordate l'ultima volta? Sì, quella è entrata nella storia. Adam Smith va rivisto. Ma di che cosa stai parlando? Perché se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine, nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche. E tutte loro ci voltano le spalle perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere. Io, senza sapere tutte queste cose, quando c'era un gruppo di ragazze, ci provavo sempre con la seconda più carina. Ed era effettivamente più probabile che questo riuscisse rispetto alla affollatissima bionda di cui parlava Nash. E ci può far capire da tutto questo cosa si intende per equilibrio di Nash? Sì, allora, anzitutto una bellissima strategia, perché la maggioranza andava a incastrarsi in un equilibrio di Nash puntando alla bionda, cioè alla ragazza più carina, no? Perché purtroppo, cioè, l'equilibrio di Nash è il modo anche strano e perverso in cui funzioniamo, no? Cioè, com'è che funzioniamo? Cerchiamo di vivere meglio e per cui abbiamo una componente egoista, tra virgolette, cioè cerchiamo di fare quello che ci fa stare meglio. Ma siccome tutti vogliamo stare meglio, quello che succede è che finiamo spesso intrappolati in questo equilibrio di Nash, appunto, che significa tutti cercando di fare meglio finiamo con il creare una società peggiore. Invece una società migliore ci sarebbe quando magari non solo cerchiamo di fare le cose solo per noi, ma anche un pochettino, una piccola frazione anche per gli altri. In questo modo stiamo tutti meglio. Uno degli esempi principali, cioè, ce ne sono tantissimi nella vita, non solo nei bar, no? Per cui il grande motto dell'equilibrio di Nash dovrebbe essere tutta colpa delle bionde, perché la bionda è quella persona o quella storia, ecco, bella, a cui tutti puntiamo e però poi ci pestiamo i piedi fra di noi, no? L'esempio delle bionde nella nostra vita reale, oltre, diciamo, alle bionde vere, è il traffico, per esempio. Certo. Gran parte degli intasamenti del traffico non sono neanche dovuti al fatto che magari la viabilità non è fatta così bene, è dovuta al fatto che ci sono queste bionde che sono le vie più brevi, le vie di grande comunicazione, dove tutti noi ci incastriamo e per cui, perché tutti vogliamo la via più breve, finiamo per renderla più lenta e creiamo questi super ingorghi nel traffico, quando invece la strategia migliore sarebbe scappare da questo equilibrio di Nash e magari andare su strade secondarie. Però purtroppo non è una situazione stabile, per quello Certo. Chiama equilibrio di Nash, no? Perché se noi ci la bionda qualcuno ce la deve prendere, però appunto, se noi ci caliamo sulle strade secondarie resta questa bella strada vuota che è la più breve, per cui è chiaro che ritorniamo di nuovo intrappolati nell'equilibrio di Nash, e si trova in tantissimi altri aspetti della vita. Per esempio, se siamo a una mostra di quadri, no? Ci sarà anche capitato una mostra dove c'è un oggetto, la situazione migliore sarebbe starsene tutti belli a semicerchio, no? A una certa distanza, così tutti possiamo vedere il quadro. Invece c'è quello che si mette davanti e impalla tutto. Certo, la bionda è mettersi vicino, no? Perché voglio vederlo un po' più da vicino degli altri, e così succede che siamo tutti con la calca, siamo tutti insoddisfatti perché siamo vittime, intrappolati dall'equilibrio di Nash. Grazie professore, è stato perfetto e la ringrazio veramente. Grazie. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di John Nash. John Nash è stato uno dei più grandi matematici del Novecento. Ha rivoluzionato la teoria dei giochi, per esempio, l'abbiamo sentito prima. Una mente originale, brillante, che va a varcare quel confine che c'è tra la matematica pura e la filosofia. Però una mente, quella di John Nash, tormentata da una schizofrenia paranoide che gli viene diagnosticata a 30 anni, poco dopo essersi sposato. sposato. Lui diventa famoso per il ritratto che è stato fatto di lui in A Beautiful Mind, un film del 2001 di Ron Howard che ha vinto 4 Oscar, interpretato da un grande Russell Crowe. Il matrimonio tra John e Alicia comincia a essere travolto dalle sofferenze mentali del matematico, che affiorano a partire dai primi mesi del 59. Lui ha 30 anni e Alicia, tra l'altro, è incinta. Lui sostiene di decifrare codici segreti per conto del governo statunitense e per questo motivo pensa di essere sempre seguito, controllato, che la sua vita sia in costante pericolo. Nessuno a questo punto riesce a entrare in contatto con lui perché, per lui, tutti sono potenziali nemici e traditori. John. Spegni! Spegni la luce! Perché l'hai fatto? Perché hai acceso la luce? Ma che cosa ti succede? Devi andare da tua sorella. Ho lasciato la macchina qua dietro. Allora prendi la colonna. Niente stradine secondarie. Resta dove c'è un pubblico. Chiaro? John, io non vado da nessuna parte. Quando arrivi da tua sorella, aspetta che sia io a chiamarti. No, non me ne vado. Io non ti lascio qui. Basta! Smettila. Ti prego, Alicia. Ti spiegherò tutto appena potrò. John sente tante voci, sente troppe voci. Nel film il protagonista ha numerose visioni e nella realtà John non vede persone, non ha visioni, sente le voci, tutto gli parla, gli parlano i giornali, le foto, i cartelloni pubblicitari, la radio, tutto, manda messaggi, messaggi che solo lui può capire e decifrare. Siamo nel pieno degli anni 50 e c'è ancora un clima di sospetto generalizzato, generato dal maccartismo, quella ondata di pensiero americana che insomma vedeva comunisti e cospiratori dappertutto, una ondata insomma che generò anche la fine di molte carriere, anche a Hollywood, insomma c'era questa caccia alle streghe. Arriva il giorno in cui Nash entra nella sala dei professori e inizia a straparlare. Parla di messaggi cifrati ovunque, i colleghi capiscono che la situazione è grave. La moglie decide di firmare per un ricovero coatto a Belmont, nelle vicinanze di Boston. Siamo già al punto che lui deve ritirarsi in una clinica privata. La prima volta che fui assegnato al McLean Hospital c'era la polizia e io cercavo in tutti i modi di divincolarmi per andarmene. Come dico io, sono stato catturato come un pezzo degli scacchi sulla scacchiera. Iniziano i primi ricoveri, i primi cicli di terapie, una discesa nella disperazione della malattia mentale che trascinerà in basso anche il suo matrimonio con Alicia fino al divorzio nel 1962. Lui pensa di essere un prigioniero politico, vuole scappare. Dopo un'anamnesi molto curata gli viene diagnosticata una forma di schizofrenia paranoide. Non c'è nessuno qui, John. Non c'è nessuno qui. È seduto lì. È seduto lì. No, no, che fate? Fermi! Io non so niente, fermi! Io non so niente! Mi chiamo Jarnesh! Mi trattengono contro la mia volontà! Chiamate il Dipartimento della Difesa! Mi chiamo Jarnesh! Mi trattengono qui contro la mia volontà! Ma che cos'è? John è schizofrenico. Le persone con questa infermità sono spesso paranoiche. Ma è il suo lavoro. Lui ha a che fare con delle cospirazioni, forse. Sì, sì, lo so. Nell'ambiente di John questi comportamenti sono accettati, incoraggiati. E perciò la sua malattia può essere stata trascurata per un periodo di tempo più lungo del solito. Che cosa vuole dire? Da quanto tempo? È possibile sin dal corso di specializzazione. Perlomeno è da allora che sembra siano cominciate le allucinazioni. Le dimissioni dal suo posto di professore sono inevitabili. Poi passa 50 giorni, diciamo, sotto osservazione presso l'ospedale McLean. Poi va in Europa, va in Svizzera, in Francia, cerca di ottenere lo status di profugo. E in un suo scritto autobiografico racconta che dopo quei viaggi passa 8 mesi di ricovero in un ospedale del New Jersey, sempre su base involontaria, cioè è sempre coatto, cercando sempre un argomento giuridico per il suo rilascio. E è accaduto proprio in quei momenti, quando viveva degli interludi di razionalità forzata, come li chiamava lui, che è tornato alla ricerca matematica. Durante i ricoveri viene sottoposto a diversi tentativi terapeutici, molti falliscono, altri hanno un'efficacia breve. Col passare degli anni e con i grossi progressi della medicina riesce a controllare la maggior parte dei suoi sintomi, però si rende conto che molto di quello che sente non è vero, ma è solo un aspetto spesso invadente del suo disturbo. Finalmente lo capisce ed ecco le sue parole. La follia è come un sogno dal quale non ti puoi svegliare. Oggi finalmente riesco a rendermi conto che si tratta di un sogno e così mi sveglio. Sceglie insomma di non dare voce alle sue voci e cerca di tenere a bada la paranoia, cerca di evitare il più possibile di prendere farmaci. Intanto il suo rapporto con Alicia non si rompe del tutto perché si vogliono bene, rimangono uniti amici, in realtà non si separano mai davvero. E, ironia della sorte, o forse genetica, il loro unico figlio, John Charles, erediterà da lui genio e malattia. Poi ricomincia a frequentare Princeton, riprende a insegnare e dichiara di non avere più fatto uso di farmaci antipsicotici a partire dal 1970. Dopo molti travagli impara a gestire i sintomi, tiene a bada le sue visioni oniriche, ottenendo la loro totale remissione, quindi la guarigione sostanzialmente. Agli inizi degli anni 90 sembrano cessare le crisi. Così nel dicembre 94 arriva l'ambito premio Nobel per l'economia, che gli viene attribuito soprattutto per i suoi contributi giovanili all'applicazione della teoria dei giochi non cooperativi all'economia, il cui concetto basilare è dato appunto dall'equilibrio di Nash. Ho sempre creduto nei numeri, nelle equazioni e nella logica che conduce al ragionamento. Ma dopo una vita spesa nell'ambito di questi studi, io mi chiedo: cos'è veramente la logica? Chi decide la ragione? La mia ricerca mi ha spinto attraverso la fisica, la metafisica, l'illusione, e mi ha riportato indietro. E ho fatto la più importante scoperta della mia carriera. La più importante scoperta della mia vita. È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui stasera solo grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. Grazie. Vedete come la matematica nel suo evolversi diventa sempre più vicina alla filosofia e in un certo senso sempre più applicabile alla vita di tutti i giorni. Lo abbiamo sentito dal discorso che è ripreso dal film Beautiful Mind. Alla fine John Nash parte dalla matematica e racconta di quanto sia ancora innamorato di sua moglie Alicia, anche se sono separati, perché lei è la donna che lo ha sempre sostenuto in tutti i modi con grandi sacrifici. Quando la condizione di Nash torna lentamente a stabilizzarsi, John e Alicia si risposano. È il 2001. Con il Nobel John Nash viene conosciuto dal grande pubblico e a chi lo intervista sulla sua condizione di salute lui risponde così. Recentemente ho ottenuto il fatto di non essere chiuso in ospedale senza per questo essere sano. In un certo senso sono sempre stato obbligato ad accettare il fatto di pensare normalmente. Alla fine mi sono sentito come se stessi scappando da una prigione dove la polizia mi costringeva a comportarmi normalmente. E io in questa mia rincorsa a quest'uomo, ma anche alle regole della vita interpretate e filtrate dalla matematica, ho la fortuna di poter parlare con un grande matematico che peraltro ha avuto il piacere di incontrare e intervistare John Nash varie volte tra il 2007 e il 2009. Sto parlando di Pier Giorgio Odifreddi, matematico, logico e saggista italiano. Buongiorno. Buongiorno, grazie per la fortuna che è ricambiata naturalmente. Grazie. Intanto, beh, un suo ricordo personale di quegli incontri, un aneddoto, qualcosa, insomma, com'era da vicino questo John Nash? Era una persona che ovviamente, avendo sofferto quello che aveva sofferto, ne portava ancora i segni, quindi è vero che in parte non era più clinicamente malato, cioè, o perlomeno, come diceva lui, poi aveva deciso di non sentire più le voci della schizofrenia che invece prima sentiva, e che quindi si comportava sempre in una maniera un po' strana. Per esempio, ricordo il primo giorno che venne al Festival di Matematica, era il 2007, io l'avevo già incontrato un paio di volte negli Stati Uniti, naturalmente a Roma eravamo tutti in attesa perché non si sapeva naturalmente se sarebbe venuto, se sarebbe arrivato. La mattina è arrivato il volo dagli Stati Uniti e lui entra con sua moglie e, senza nemmeno salutare, tira fuori la macchina fotografica e comincia a fotografare noi. E che ovviamente, no, è un po' un'inversione di ruolo che noi non ci aspettavamo, no? Eravamo tutti pronti, no, appunto, no, a intervistarlo o a fotografarlo, no? E invece ci siamo trovati, no, dall'altra parte dell'obiettivo, macchina che poi naturalmente ha regolarmente perso e ritrovato più volte nel corso, certo, di quegli incontri. Come veniva vissuto lui dal pubblico? Come una star, come dire, una stortura meravigliosa del sistema? Quella prima volta c'era da una parte una specie di rispetto, anche un po' di timore, poi ovviamente era diventato il divo del film, appunto, Beautiful Mind, che avete citato, certo, e quindi insomma la gente in parte si teneva alla larga e però lo guardava un po' come si guarda un divo o addirittura, no, una persona che arriva quasi da un altro pianeta. Poi col passare del tempo man mano si vedeva che il pubblico in fondo, no, non dico che ci si fosse abituato, ma aveva perso un po' della soggezione, quindi lo, certo, si fermava. Ma lui era molto simbiotico con la moglie, cioè erano sempre assieme, è un rapporto come ce lo immaginiamo noi? Praticamente una cosa sola, anzi ricordo per esempio la prima volta, appunto, quando abbiamo fatto la prima intervista e c'era la sala grande dell'auditorium, 3.000 persone, stracolme, eccetera, lui si è lasciato andare a fare anche un po' di confidenze, diciamo, su, appunto, sulla malattia, su ciò che aveva vissuto, ma il motivo è stato perché praticamente si è dimenticato di essere in pubblico, cioè lui continuava a stare seduto a guardarmi finché a un certo punto mi disse: possiamo abbandonare il palco? E io dico: va bene, no? E la prima cosa che fece, appunto, no, quando si alzò, fu di cercare subito sotto la moglie che era lì in prima fila, no, dicendomi: dov'è Alicia, dov'è Alicia? Perché in realtà senza di lei credo che si sentisse completamente sperso, anche perché, come avete appunto ricordato, lui ovvio quando cadde nella malattia, nella schizofrenia, divenne una persona insopportabile da quindi riconosceva, diciamo così, no? Aveva la gratitudine nei confronti della moglie, anche, certo, di averlo. Poi dopo che uscì appunto da questi istituti psichiatrici, lei se lo riprese in casa, benché fossero ormai separati, e per praticamente 20 anni, perché erano gli inizi degli, sì, anni 60, e poi il suo recupero, diciamo così, mentale fu una ventina d'anni dopo, metà degli anni 80, e lei lo riprese in casa, tra l'altro con questo figlio che purtroppo è ancora vivo, no? E anche lui è una forma gravissima di schizofrenia, però non sembra avere invece dei momenti di recupero, quindi di remissione spontanea, quindi sembra, loro infatti erano preoccupatissimi e si cruciavano del fatto che il figlio poi avrebbe dovuto essere poi da solo tenuto forse spesso in istituti. Cioè. Grazie, sì, professore, a prestissimo. Grazie a voi per il ricordo, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Siamo di fronte a un genio matematico che dopo 20 anni di blackout, con molta pazienza, direi anche contro ogni pronostico, è riuscito in qualche modo a gestire la sua malattia. E Nash e Alicia, lo abbiamo detto, si sono risposati nel 2001. Dopotutto, dirà lei stessa, abbiamo passato assieme la maggior parte della nostra vita. Non so che cosa porterà il futuro esattamente, anche se magari non è un futuro così lungo per me. Certamente il futuro in generale è presumibilmente lungo, a meno che le cose non vadano molto male o che non avvenga un miracolo. Beh, la vita per John è stata lunga, però il destino ne ha scelto la fine assieme a quella di Alicia, il 23 maggio 2015. Break over a turnpike tragedy, remembering a professor, a scholar, and the man behind a beautiful mind. Students at Princeton and celebrities in Hollywood honor John Nash a day after his sudden death. I media di tutto il mondo danno questa notizia. Erano insieme su un taxi il premio Nobel e la moglie. Il taxi è andato fuori strada nella New Jersey Turnpike e si è schiantato contro un guardrail. John Nash aveva 86 anni, Alicia 82. Comunque una bella, non una bella, ma una particolare e lunga storia d'amore. Russell Crowe, saputo della scomparsa tragica, ha scritto in un tweet: il mio cuore va a John e Alicia e alla loro famiglia, una partnership straordinaria, bellissime menti e bellissimi cuori. Ci sono storie spesso sconosciute di persone che hanno saputo dare questo colpo d'ala nella loro vita, hanno volato in alto. Nel caso di John Nash hanno volato anche non in basso, altrove, hanno volato in un'altra dimensione, quella dei suoi fantasmi e della sua mente. Ognuno di noi può cadere e risalire, e alcuni di noi vanno anche su nuvole che gli altri non sanno e non possono, per fortuna, vedere. Se volete mandarci dei commenti o segnalarci altre vite, fatelo, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it oppure venite a trovarci, a trovarmi sui vari social, insomma, se volete. A me ci arrivate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Francesca Del Rosso.